Salva Danaio con Valeria De Rosa. Appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di case, ma parliamo in particolare di seconde case, le case di vacanza, di villeggiatura. Oggi è il 30 giugno, cominciamo a vedere faticosamente il periodo vacanziero ormai alle porte. Ne parleremo non solo come possibilità per andare a trascorrere le vacanze, ma in alcuni casi anche come possibilità di investimento, e cercheremo di capire quali sono le zone che negli ultimi tempi hanno guadagnato punti e quelle che invece ne hanno persi, rivelandosi forse anche delle buone possibilità, chissà, per un investimento per chi volesse appunto sfruttare questa strada. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Ovviamente, come ogni giorno, io sono aiutata dai miei nostri validissimi ospiti. In studio con me la collega del Sole 24 Ore, Paola Dezza, che saluto. Buongiorno e benvenuta, Paola. Grazie, buongiorno. Collegato telefonicamente Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Prima però di, come sempre, di affrontare il tema di oggi, andiamo a vedere quanto succede sui listini, perché l'Europa rallenta in alcuni casi anche invertendo la rotta. Questa mattina il segno era più su tutte le piazze, complice anche la buona chiusura di Wall Street e l'andamento positivo delle piazze asiatiche. La peggiore, se così possiamo dire, era stata Tokyo, con una chiusura con un più 0,19% in chiusura. In questo momento Francoforte è poco al di sotto della parità, cede uno 0,04%, Parigi guadagna uno 0,2%, la migliore resta Londra, che guadagna uno 0,65%. Rallenta molto anche Milano, dove il FTSE MIB e il FTSE All Share guadagnano 1,009 e 1,08% rispettivamente. Sul listino principale andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Il primo titolo, il miglior titolo, resta Impregilo, più 2,98%. Impregilo e la controllata statunitense Sailey si sono aggiudicate in raggruppamento con la società Bernard la gara per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana di San Francisco. La commessa ha un valore complessivo di 233 milioni di dollari e la durata dei lavori prevista è di 35 mesi. In evidenza anche il Banco Popolare, più 2,43%, presentazione del piano industriale questa mattina, 603 milioni di utile alla previsione per il 2013 e poco più di 900 milioni circa nel 2015, con un taglio pari a 1.120 tra i dipendenti. Azimut guadagna 2,5 punti, la Popolare di Milano 2 punti, Mediolanum l'1,29%, così come l'Automatica. In fondo al listino invece oggi cede terreno Fondiaria Assai, meno 3,17%. L'apertura, dobbiamo dirlo, era stata positiva per Fondiaria Assai, che poi nel corso delle ore è scivolata fino a diventare appunto il peggior titolo. Ricordiamo che lunedì è partito l'aumento di capitale. Enel Green Power cede uno 0,74%, Tenaris lo 0,7%, Atlantia cede mezzo punto, Fiat Industrial lo 0,34%, Mediaset cede uno 0,32%. Lo ricordavano anche nel nostro GR, sono usciti alle 11 i dati relativi all'inflazione. L'inflazione nell'Europa 17 è stabile a giugno al 2,7%. Per quanto riguarda l'Italia, anche qui un più 2,7% stima per quanto riguarda il mese di giugno, il dato più alto dal 2008. Pesano moltissimo i prezzi dei carburanti e volano i prezzi dei biglietti degli aerei, dei traghetti e dei treni. A proposito di inflazione, oggi ha parlato anche il presidente della Banca Centrale Europea, l'uscente Jean-Claude Trichet, ricordando che la Banca Centrale resta molto vigile, pronta ad agire per evitare pressioni inflazionistiche a medio termine. Ancora una volta Trichet ci ha ricordato che è prossimo un aumento dei tassi da parte dell'Istituto di Francoforte. Velocemente sui cambi, 1,44,80 in questo momento il cambio tra l'euro e il biglietto verde. Con questo chiudiamo la nostra parentesi dedicata ai mercati, torniamo, ci tuffiamo nel nostro tema di oggi che ci permette di così una boccata un po' più leggera rispetto a tutti i nostri temi della giornata. Parliamo di case di vacanza e prima di tutto la nostra scheda. Con le vacanze alle porte, in molti italiani si riaccende la voglia di comprare una bella casa dove trascorrere le ferie, al mare, così come in montagna. Ma trattandosi appunto di casa vacanza e non di prima casa, i criteri da considerare nella ricerca e nella scelta sono differenti rispetto a quelli per la prima casa. Nelle località di mare, ad esempio, conta lo spazio esterno, caratteristica che rende più liquido l'investimento, come la presenza di una terrazza o di un giardino. Altrettanto importanti sono la vista panoramica e la vicinanza al mare, mentre la presenza di una portineria è decisamente trascurabile. Caratteristiche a parte, il momento per l'acquisto potrebbe essere quello giusto, perlomeno in alcune zone dove, complice la crisi e i ribassi delle quotazioni, è più facile spuntare prezzi interessanti. È il caso, ad esempio, di Riccione e Sanremo, dove i prezzi rispetto all'estate 2008 sono calati di circa il 12%. La stessa Costa Smeralda, dopo anni di boom, sta vivendo un periodo difficile che potrebbe dunque tradursi in vantaggio per chi ha intenzione di acquistare. Tengono invece località come Forte dei Marmi, che dall'anno scorso ad oggi ha visto i prezzi crescere del 3%, come Porto Ercole e l'Isola del Giglio, più 2% circa. La discesa dei prezzi crea anche occasioni d'acquisto, ma per quanto riguarda la seconda casa al mare, bisogna prestare molta attenzione alla qualità. Spesso, infatti, prezzi particolarmente convenienti sono dovuti a costruzioni a basso costo. Allora Paola, cominciamo da quanto è oggi in edicola. Con il Sole 24 Ore c'è tutto l'inserto dedicato alla casa in vacanza, la seconda casa, che accanto, diciamo, alla, tra virgolette, leggerezza del tema, però affianca anche tutta una serie di tematiche e approfondimenti necessari per chi si vuole, chi può ovviamente, accostarsi a questo tipo di investimento, perché è comunque un argomento che non va preso, tanto per tornare sullo stesso termine, non va preso alla leggera. Esatto, l'investimento è proprio, si parla proprio di investimento in una seconda casa che ha caratteristiche diverse da quelle della prima casa. Diciamo che facendo un piccolo preambolo sui mercato immobiliare in generale, tutti e due i segmenti si sono mossi in maniera negativa. Dopo una mini ripresa alla fine del 2010, in realtà da inizio 2011 a oggi si è visto che questi segnali di ripresa si sono spenti e il mercato immobiliare non riesce a tornare a correre, diciamo così. La seconda casa si è mossa come la prima casa. Ci sono però località nelle quali tutto sommato i prezzi sono saliti, le cosette evergreen, e località che invece hanno risentito maggiormente della crisi per una serie di motivi, dalla scarsa qualità delle costruzioni alla difficoltà di raggiungimento del posto e così via. Tra tutte la Sardegna, diciamo la macro area che ha risentito maggiormente della crisi, in particolare la Costa Smeralda, dove sono scesi i prezzi tanto delle ville di lusso, e parliamo di una discesa del 14% per quanto riguarda dimore che vanno oltre i 10 milioni di euro, quanto per i complessi residenziali di tipologia standard, di più o meno alta qualità. Adesso si compra nelle zone interne anche a 2.200 euro al metro quadro, fino a 3.000 euro, perché proprio negli ultimi tre anni i prezzi sono scesi in maniera considerevole, quindi si può guardare come a una possibile occasione di acquisto in questo momento. La Sardegna ha perso appeal perché è passata un po' di moda, tra virgolette, dopo l'invasione dei russi degli ultimi anni, e dall'altro lato risente dei pesanti rincari dei traghetti, che quindi rendono molto costoso l'arrivo in Sardegna. Ci sono altre aree che hanno comunque risentito dei cali, come la Liguria come la costa romagnola, dove i prezzi erano con il boom edilizio saliti in maniera quasi sconsiderata. Per cui bisogna andare a cercare, diciamo, queste occasioni, ce ne sono, di contro ci sono invece località che sono quelle dove negli ultimi 50 anni sempre si è cercato case, cosiddette evergreen. Diciamo che sono quelle dell'investimento sicuro, che esatto. Abbiamo quasi la sicurezza che anche nei prossimi 20-25, non mi azzardo a dire 50 perché mi sembra proprio una cosa troppo in là nel tempo, restano del loro valore. I prezzi dovrebbero tenere, sì. Presidente Breglia, questo, diciamo, stop della ripresa, di quella ripresa che avevamo visto intorno alla metà del 2010, è uno stop, diciamo, che si protrarrà per tutto quest'anno, sia per quanto riguarda le case vacanza che per quanto riguarda poi invece le case, diciamo, di città come prima casa? Che cosa ci dobbiamo attendere? Tanto, diciamo, separerei l'andamento della seconda casa da quello della prima. In generale, lo scorso anno gli acquisti di seconde case, diciamo, hanno avuto più vivacità. Ovviamente i numeri sono molto diversi. Certo, due certamente mercati, non sono paragonabili. Perché quella seconda casa è circa il 5% del mercato della prima come dimensione. C'è stato un buon flusso di domanda che poi, diciamo, il trend di compravendite si è arrestato e oggi siamo in questa fase di stabilità, soprattutto per carenza di offerta. Cioè, mentre nella prima casa chi compra è legato a molte motivazioni: la cifra di investimento, la zona in cui ha abitato, in cui va a lavorare, quindi ha, diciamo così, una gabbia più stretta per scegliere. Nella seconda casa la motivazione prevalente è quella di trovare un oggetto bello. Presidente Breglia, stavamo parlando appunto di come si era mosso il mercato per quanto riguarda la seconda casa e di una sostanziale carenza da parte dell'offerta. Sì, perché la spinta all'acquisto di una seconda casa è molto legato alla tipologia di offerta. Cioè, se ci sono case con vista mare, abbiamo sentito la scheda, con vista mare, ben presenti, oppure anche complesse, ristrutturati o in montagna, diciamo vicino agli impianti sciistici e con vista, allora la domanda si attiva anche per investimento. Certo. Se invece questa è purtroppo, diciamo, la situazione storica del mercato della seconda casa in Italia, è che l'offerta è prevalentemente di cattiva qualità. Cioè, invece di avere una casa vista mare, la si ha 500 metri all'interno, invece di una casa d'epoca col terrazzino si ha un appartamento anni 60 che ha gli stessi problemi di un appartamento di periferia a Roma o a Milano. Certo, a quel punto lì non conviene più, diciamo. E quindi sì, non è mai una questione di prezzo. Ad esempio lo scorso anno sono state vendute molte abitazioni piccole con prezzi unitari da 8.000-12.000 euro al metro quadrato, però si sono comprati 20-30 metri quadrati. Non è la stessa cosa nella prima casa. Certo. Chiaro, i 20 metri quadrati non si cercano, si cercano appartamenti più grandi, e lì, diciamo, il calo che stiamo, diciamo, è un calo relativo, perché tutto sommato il mercato è stabile ormai da un anno e mezzo. Dei mesi sale un po' più, dei mesi scende, ma si è molto stabilizzato ormai sulle 50.000 compravendite al mese. E diciamo lì gli scambi dipendono dalla possibilità di avere mutui, dalla maggiore o minore flessibilità delle banche, anche dall'offerta, ma in misura minore. Diciamo, qui è la domanda che condiziona il mercato, ma non l'offerta. A questo punto con Paola vorrei anche parlare di continuare a parlare di quelle che sono state un po' le zone che ultimamente hanno perso terreno. Abbiamo parlato della Sardegna, che ha perso un po' appeal, in particolare la Costa Smeralda, dicevamo è passata un po' di moda, e poi sicuramente anche il costo dei trasporti ha inciso e ha fatto la sua parte. C'è anche un'altra zona che ha perso terreno, che è quella della Riviera, della Riviera Romagnola. Sì, qui si è costruito molto perché negli ultimi, diciamo, anni c'è stato un boom di acquisti, è una zona che si è riscattata, diciamo, i prezzi sono saliti molto. A Milano Marittima ancora oggi si vende da 5.000 a 8.000 euro al metro quadro, così come a Riccione e in altre località. Però diciamo la zona ha perso una scommessa, che era quella di trasformare in alcuni casi la seconda casa in una prima casa, perché soltanto Rimini forse regge come città anche invernale, e quindi molti cantieri di nuovo si sono fermati. È un piccolo fenomeno spagnolo, come mi raccontava proprio qualche giorno fa Mario Breglia. Allora, Presidente Breglia, magari possiamo dire qualcosa di più anche su questa parte della penisola, che da sempre, possiamo dire proprio da sempre, è un po' meta delle vacanze, di vacanzieri da tutta Italia. Sì, questa è una meta tradizionale dagli anni 30. Anche perché è molto comoda, bisogna dirlo, anche per le famiglie è una meta molto comoda. Sì, quando sei arrivato, dopo che hai fatto ore di... Quello è vero, su questo non posso darle torto, però una volta arrivati a delle spiagge talmente ampie e attrezzate che bisogna dire che in qualche modo cercano di fare la loro parte a dispetto delle autostrade. Sì, tutti questi che sono vantaggi per la stagione turistica, quindi per gli alberghi, per il campeggio e così via, diventano dei problemi invece per sviluppare un mercato della residenza. Cioè, negli ultimi anni, diciamo nell'ultimo decennio, sono state date moltissime autorizzazioni e si è costruito molto in tutte le zone della Riviera Romagnola, ma diciamo anche Pesaro, Marche, allo stesso fenomeno. Cioè, si è costruito molto, un po' per flussi demografici locali e poi soprattutto con l'aspettativa, la speranza di far arrivare in queste zone anche residenti da altre città. Puntiamo Bologna-Rimini, è un'ora di treno, ci sono moltissimi treni e quindi ci sono stati molti passaggi anche di residenza, di famiglie, e poi pendolarismo con la città e così via, Cesena, eccetera, diciamo le zone interne. Però questo meccanismo ha funzionato, come stava sottolineando Paola, con Rimini, però con le altre località che sono più lontane, più scomode, non ha funzionato, perché a questo punto non c'è più il treno di un'ora, ma ci sono dei locali che mettono un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, certo. Non così. Ma qui interviene purtroppo un deficit di infrastrutture che penalizza ancora una volta, diciamo, questo tipo di mercato, ma in realtà ne penalizza molti altri. Poi si sono creati due mercati, cioè ci sono le case, diciamo, belle vicino al mare o le ristrutturazioni, che vanno a 7, 8, 9 mila euro al metro quadrato, in qualche caso anche più, sono le classiche case con bella vista. Poi ci sono le abitazioni invece costruite nelle periferie o nei piccoli centri vicino alle località più note, dove le case si vendono a 3.000, 4.000 euro al metro quadrato, e qui c'è la penalizzazione maggiore, perché non sono case di mare, non sono case di città. Certo. Quindi in questo ibrido c'è la crisi di molte imprese di costruzione e anche la crisi del mercato. Carla, la signora Carla da Bergamo, buongiorno, benvenuta. Allora, io avevo una cosa da dire riguardo le case di vacanza. Io parlo di una casa al lago. Sì. In un posto molto bello che è il lago di Garda, dove ci sono le terme e la casa è sul lago. Sì. Questa casa è stata acquistata una decina di anni fa, è una casa non grandissima in un residence con piscina. Io ho molto rispetto per quello che sta dicendo il vostro esperto, però all'atto pratico, cioè le vendite non sono in stallo ma in super stallo. Perché io che vorrei vendere dopo un po' di tempo che ho frequentato questa casa e vorrei... Cioè, mi ritrovo a venderla ad un prezzo, cioè, nonostante la zona è una delle più belle località, cioè, assurdo, cioè, è meglio che mi tenga la casa e lasci stare l'idea della vendita. Almeno per il momento, dice lei. Allora, Presidente Breglia, la nostra ascoltatrice l'ha chiamata in causa, da quanto abbiamo capito, ha un appartamento sul lago che... insomma, in un complesso con piscina, sembra essere una casa che ha tutti i requisiti per essere venduta bene, eppure c'è poco da fare. La seconda casa, appunto, come dicevamo prima, non è un investimento di necessità, sì, ma è un investimento di piacere, per cui bisogna, così come la signora ha scelto 10 anni fa quell'appartamento, quella casetta, immagino non perché fosse un buon investimento, ma perché le piaceva il lago, quella zona, quel sì, tipo di casa. Il residence non è l'appartamento singolo, ci sono dei servizi, quindi qualcuno l'accetta e qualcuno no. Quindi bisogna trovare qualcuno che abbia quella stessa domanda, cioè quella stessa esigenza, voglia di trovare in quella zona, in quella, quella casa, quelle dimensioni, e poi abbia anche il prezzo per comprare. Certo, abbia anche la disponibilità per affrontare un investimento, diciamo, di questo genere. Le quotazioni, che in molte località piccole i prezzi sono teorici, cioè si dice una certa cifra, ma magari lo scambio ultimo è stato fatto 2 o 3 anni fa, mm-mm, quindi sono mercati, cioè man mano che si va via, che ci si allontana, diciamo, dalle case standard, cioè la casa a Rimini di fronte al mare, e si vende in 5 mesi, 6 mesi, insomma non in poco tempo, sì, man mano che si allontana da questi prodotti, diciamo, più commerciali, e lo però 6 mesi non è una cosa relativa, sì, allora si va verso tipologie sempre più complicate, in cui la domanda è sempre più ristretta. Certo. Questo vale per i casali in Umbria, vale per gli immobili ristrutturati soprattutto, qui raramente si riesce a ottenere la cifra che si è investito per l'acquisto, la ristrutturazione e la messa in ordine. Certo, e questo, diciamo, è un concetto da tener presente sempre nel momento in cui poi si vuole vendere la propria casa, la propria seconda casa. Questo vale sempre, non è questione di mercato, certo, liquido, mercato che funzioni o non funzioni. Qui il mercato delle seconde case, soprattutto, diciamo, quelle un po' particolari, è un po' come il mercato delle automobili d'epoca. Certo. Ho bisogno di qualcuno che abbia voglia di spendere tanti soldi per una casa o per una automobile che userò poco, che è molto costosa, e qui difficilmente potrò trovare qualcuno che poi la riacquisti, e sicuramente non al prezzo che io ho speso. Allora, Presidente Breglia, stanno arrivando alcuni messaggi, cerco di metterli in una forma accettabile radiofonicamente, perché alcuni li scrivono in maniera un po' colorita, e aprono però un tema che io volevo sottoporle, e cioè negli ultimi anni abbiamo visto, basta semplicemente andare sui siti esteri e vedere come le case all'estero, anche nelle località di mare estere, hanno dei prezzi molto più abbordabili rispetto alle nostre. A questo punto io le chiedo, questo è un mercato che ha preso in qualche modo piede? Cioè, ci sono italiani che vanno fuori, non lo so, mi viene in mente la Florida, perché abbiamo visto che per esempio a Miami ci sono delle case, delle possibilità a sì, buon mercato, ad esempio, faccio un esempio, ma ce ne possono essere molti altri. Sì, 2 considerazioni. L'anno scorso c'è stato, secondo i nostri numeri, il sorpasso degli acquisti di seconde case all'estero rispetto all'Italia, quindi il fenomeno. E quest'anno si conferma, circa 35.000 case all'estero contro le 31.000 seconde case in Italia, ecco, per avere sì, un'idea. Dimensioni. All'estero ovviamente c'è tutto, c'è chi compra l'appartamento caro a Londra o a New York e chi compra gli appartamenti che costano poco. Miami, i prezzi sono scesi. Sono scesi anche in Spagna, ecco, però bisogna anche tenere presente questo, che anche in Italia ci sono località dove i prezzi in zone vicino al mare o in montagna sono 2.000 euro, 1.800 euro al metro quadrato, sì, così come in Spagna, così, diciamo, parliamo di paesi confrontabili, così come a Miami, ma in realtà l'italiano in queste zone non va mai a comprare delle cose low cost, perché quelle low cost sono anche di low quality, cioè di bassa qualità. In Italia uno, se vuole, compra nell'entroterra della Calabria case a 1.000 euro al metro quadrato, se va sì, in provincia di Rieti trova i casali a 500-600 euro al metro quadrato, quindi non c'è bisogno di andare lontano, però non è la seconda casa al mare, non è la seconda casa in montagna che vuole il gusto italiano, per cui gli italiani vanno a comprare a Formentera, sì, dove le case costano 5.000 euro al metro quadrato, comprano a Santorini dove sono 7.000 euro al metro quadrato, poi comprano 10 metri quadrati, 15 metri quadrati. Certo. È successo a Parigi, e qui chiudo, lo scorso anno un'indagine dei notai francesi ha dichiarato che i primi compratori stranieri a Parigi sono stati gli italiani, che comprano appartamenti di 17-18 metri quadrati, che lì si possono fare, sono sul mercato, da noi non è possibile, sì, ma li comprano a 8-9 mila euro al metro quadrato. 15 metri quadrati, 20 metri quadrati è una stanza d'albergo. Beh sì, poco più forse, ma proprio poco di più. Intanto Paola forse voleva dire una piccola cosa a proposito del lago, tanto per tornare all'ascoltatrice, sì, di prima. Sì, ci sono anche mode che influenzano comunque i prezzi, quindi il lago di Garda forse adesso è meno di moda di quanto fosse 20 anni fa, 10 anni fa, mentre il lago di Como mantiene il suo appeal, quindi bisogna fare i conti anche questo. Le mode, sì. Per quanto riguarda invece le caratteristiche da prendere in considerazione per una seconda casa, perché non coincidono con quelle di una prima casa, in parte l'abbiamo già detto, sicuramente il terrazzo piuttosto che il giardino influenzano, certo. Ci sono appunto dei fattori da tenere proprio presente per far sì che il proprio investimento non si svaluti. Esatto, comunque prima di tutto bisogna tener conto, come diceva Mario Breglia prima, dell'aspetto soggettivo, perché chi acquista una seconda casa non l'acquista tanto come investimento, ma l'acquista per sfruttarla, per utilizzarla, quindi è una casa che deve piacere prima di tutto, anche perché il rendimento lordo annuo d'affitto di una casa al mare, vista la stagione breve per la quale la si può affittare, non supera il 2% annuo lordo, quindi sostanzialmente una redditività molto bassa. Quindi prima di tutto l'aspetto soggettivo, poi la facile raggiungibilità del luogo, ecco perché per esempio sul lago di Como località come Cernobbio costano molto di più di località più spostate verso l'alto lago, quindi fino a Menaggio sostanzialmente, quindi i trasporti, le infrastrutture, il modo in cui la località è servita hanno il loro peso, e poi anche guardare alla qualità, perché appunto la seconda casa spesso non sempre è costruita con qualità, con attenzione ai materiali, quindi è molto importante anche analizzare bene l'aspetto della qualità, considerando che se si cerca una prima casa in città, la città la si conosce bene, spesso la si cerca nella zona in cui si abita, quindi si hanno degli strumenti per la scelta molto più approfonditi, mentre se si cerca una seconda casa si va qualche volta a vederla, ma meno, si diciamo, rispetto, certo, rispetto a quanto è la possibilità di una ricerca in città, quindi comunque agire con attenzione, con cautela e stare attenti anche alla costruzione, se si parla di nuovo, ai materiali utilizzati. Allora, io non voglio insistere troppo sull'argomento, però vedo che gli SMS in questo senso vanno. Tiro di nuovo in ballo il presidente Breglia, perché qui ci sono ascoltatori che ci dicono: nelle Filippine, in Thailandia, in Vietnam, dove comunque ci sono dei bellissimi posti di mare, si comprano delle regge con 40.000 euro. Cosa mi risponde? Sì, sì, sì, ma ci sono anche le capanne in Africa che si vendono a 1.000 euro. No, ma penso che qui non si faccia riferimento. No, ma non è una battuta, è la verità, cioè nel senso dobbiamo intenderci che cosa si compra e che cosa si intende per casa, ecco. Mm. Questo è. Poi ovviamente bisogna anche pensare al fatto che in questi posti ci si va una volta l'anno. Ci sono posti che sono soggetti, ad esempio come le Filippine e tutta l'area della asiatica, molto, sì, soggetta ai cicloni, per cui le case hanno solo una piccola parte in muratura e molto in legno, ma negli stessi Stati Uniti un'abitazione su 5 è di legno, sì, certo. Tutta la parte della costa occidentale è tutta di legno, per cui anche il tempo di vita di un'abitazione è proporzionato al prezzo, cioè, ecco, anche nell'immobiliare diciamo non esiste l'albero degli zecchini d'oro, no, cioè, ogni cosa vale, se io prendo un'abitazione nel centro di Roma che è lì da 500 anni, quasi sicuramente resisterà altrettanto, però costa 10.000 euro al metro quadrato. Se la compro in Thailandia con rischio di tsunami, sicuramente almeno due cicloni all'anno, la posso comprare a 500 euro al metro quadrato, ma la differenza sta nel tipo di casa, nel tipo di legislazione. Non dimentichiamo che moltissimi paesi, basti pensare ad esempio a tutti i paesi arabi, quello che sta accadendo, in moltissimi paesi le legislazioni proprietarie, ad esempio, possono cambiare facilmente. Sì. Se io ho una casa non la posso portare via, sono certo obbligato poi a venderla o a lasciarla lì. Certo. Ecco, diciamo che vanno tenute in considerazione molte molte cose. È come i titoli, cioè se io compro un titolo di uno Stato che mi dà un rendimento del 15% e magari uno Stato che non è in grado di garantirmi la riduzione del capitale. Sì. I posti sicuri, se compro un Bund tedesco mi rende poco più dello 0%, ma c'è un motivo, ecco, è la stessa, certo, la stessa logica vale anche nell'immobiliare. Nell'immobiliare. Presidente Breglia, lei mi ha tirato fuori un parallelo un po' pericoloso in questi giorni di crisi, per cui magari lasciamolo un attimo da parte, perché è molto calzante, però sa com'è in questi giorni di tensione, anzi oggi magari un po' meno dopo il voto di ieri e il voto che ci sarà tra poco ancora al Parlamento di Atene. Marco da Milano. Ho parlato solo di quello tedesco. Certo, ma io ho fatto caso a questa precisazione, non si preoccupi. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Allora, io opero nel mercato immobiliare turistico, quindi qualche cosina. In tema. Una minima idea. Interno, certo, ma sto guardando anche all'estero, nel senso che stiamo andando a guardare anche qualche progetto fuori dall'Italia. Sì. Credo che tra gli sms provocatori degli ascoltatori e la posizione del dottor Breglia, la via di mezzo forse sia la considerazione più giusta, perché in Italia c'è un mercato immobiliare spesso molto molto diciamo gonfiato da un certo punto di vista, nel senso che chiaramente la qualità non sempre corrisponde, cioè il prezzo non sempre corrisponde alla qualità, ovvero si paga molto di più di quanto non si dovrebbe rispetto alle normali condizioni di mercato, e spesso mancano servizi, infrastrutture, per cui chi compra casa al lago e probabilmente dopo 10 anni fa fatica a rivenderla è perché ha comprato in una zona del lago dove ci sono centinaia di realizzazioni tutte uguali, e quindi un mercato di invenduto magari di qualche migliaia di unità e difficilmente riesce a rivenderla, e quindi questo è anche un po' frutto della politica, quantomeno della politica di pianificazione del governo e del territorio. Sì. Viceversa ci sono delle ottime opportunità anche all'estero, e secondo me sono delle opportunità davvero interessanti, non per forza condizionate da qualità costruttiva pessima, anche perché spesso in Italia, all'estero costruiscono italiani e portano materiali, non dico che portino la manodopera, perché questo non è vero, perché sennò non avrebbero la convenienza, sì, ma portano certamente materiali sia di costruzione che di arredo, per cui l'italiano che compra, faccio un esempio, a Santo Domingo, compra a 2.000 euro al metro all'interno di un golf club, o forse anche meno di 2.000 euro al metro, un prodotto di qualità. Mm. Credo quindi che ci sia una via di mezzo, cioè ci sono delle situazioni dove in Italia se uno compra nel turistico e compra bene, e compra in un contesto che è ben realizzato e ci sono dei buoni servizi, di sicuro vede il suo immobile valorizzato nel tempo, certo, ma anche nel giro di breve. Chiaro che se compra laddove c'è stata un'edificazione di massa, difficilmente può sarà farlo. Così. Grazie a Marco da Milano per le sue considerazioni. Ci restano pochi minuti a disposizione. Paola, oltre alla Sardegna, alla Riviera Romagnola, ci sono anche dei tratti della Liguria, se non sbaglio, parlavamo anche di Varazze, che... Sì. È in discesa, è in fase calante. Sì, ecco, Varazze diciamo ha una particolarità, perché i prezzi sono scesi e quindi le compravendite sono salite, a dimostrazione del fatto, come alcuni osservatori hanno sottolineato proprio per quanto riguarda il settore della seconda casa, che quando i prezzi scendono a più miti consigli effettivamente le vendite si realizzano. C'era stata una piccola bolla a Varazze o c'è stato qualche motivo particolare per cui i prezzi sono... Hanno costruito molto, come in tante parti della Liguria, quindi c'è anche una qualità non sempre elevata, però la cosa importante è che il segnale che quando comunque i prezzi sono si allineano diciamo con le aspettative degli acquirenti, le compravendite si realizzano. Questo è lo stesso problema che si vive nel mondo della prima casa, perché le richieste di proprietari oggi come oggi sono rimaste ai livelli del boom diciamo immobiliare di qualche anno fa, mentre il mercato non è più quello di tre anni fa, e quindi quando i proprietari se ne rendono conto e abbassano le pretese di un 15-20%, che è il gap che adesso c'è tra domanda e offerta, incontrano poi quella che è la richiesta di chi cerca casa. Diciamo che non solo il mondo immobiliare è quello è cambiato da tre anni a questa parte, comunque è cambiato parecchio in una battuta, presidente Breglia. Sì, è cambiato molto. Il problema è sempre sapersi adattare al cambiamento. Ma cosa difficilissima per tutti. Sì, anche perché poi il proprietario rimane legato diciamo al prezzo di partenza, l'ha visto rivalutarsi anche se in modo teorico nel corso del tempo, e quindi pensa che il valore teorico debba essere quello vero. Certo. E quindi un euro in meno risulta una perdita. In realtà non è vero, perché qualsiasi persona che ha comprato una casa 10 anni fa oggi se la rivende in termini di rivalutazione ha guadagnato rispetto all'inflazione sempre. Certo. Va tolto quel differenziale di speculazione. Dobbiamo fermarci, sono le 12:55 minuti, 50 secondi. Io ringrazio i miei ospiti, la collega Paola Dezza del Sole 24 Ore per essere intervenuta qui in studio con me, quindi mi ha anche tenuto compagnia. Grazie a voi, Paola. Grazie. Il presidente Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, grazie a lui per essere stato in collegamento telefonico con noi e buon lavoro. Grazie, e ringrazio in redazione Gaia Romani, in regia Fabio Cantadori. Noi ci risentiamo domani dopo il GR delle 12.